alle 10, c'è qualcuno? Si cucano alle 10, c'è qualcuno? Quando scala è oggi. Vabbè, noi, non ci vediamo noi. Allora, i nostri sì, quasi 9:40 io nero bordo nel capo. No, sto usando il magnum adesso, le 9. Ah, 9:40, il 9:40 del magnum è il fondo scala. E perché sto utilizzando il magnum e l'ho adattato questo Thunder più 3 a vedere come sta andando, capito? Però se mi stai dicendo che va bene, ti sto ascoltando con la cassa, ti sto ascoltando, no? Con una cosa di betonno, non con la cassa del baracchino, con la cassa proprio quella originale. Aspetta tu che provo l'altro microfono, l'MB più 4, a vedere se è uguale o se questo è più forte. Prova a vedere. Ah sì, fa che. Ma poi è un taglio molto difficile. Ora, prova. Ora, che marito più basso, eh. Ora, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ma bella. Com'è, uguale all'altro o diverso? All'incirca. Vabbè, un po' diverso, ma all'incirca è lì, dai. È uguale, dai, si può dire che cambia poco, dai, la differenza, stavo dicendo. Non è che sia tutta questa grande differenza, così anche tu. Ma è un po' di più pompa. Questo? Via, o è più alto. E magari che si indigeno. Io pare che sia più basso, si trova in pare che è più forte lo microfono di Ghizzo. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ora, prova, va bene? Forse io. E capagata, mi interessa vada, va bene, dai. Anche l'altro, il Thunder più 3 glielo pulire lui prima, perché fa casino ogni tanto, capito? E avevano una giugana di puri nuda, allora da subito e andare così. Andare sì, capagata. Comunque la sera a capo è troppo bello in FM, come devi andare in FM? No, la sera c'è il gruppo che fa in FM, ma lo spettacolo vero, va bene. Aspetta tu, volevo fare una prova a attenuarmi però, dimmi quando sei pronto, attenuato. Sono tutto attenuato. Guarda un po', tu ha attenuato quant'è adesso? 9:10. Attenuato, addirittura. Guarda, aspetta che abbasso. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4. 7. È assurda, Cosa ridda, È un bene. Vabbè, ma non lo uso mai a massima potenza questa radio. La lascio così adesso con 5 watt modulati, c'è stazionaria in altro gioco. Oh, stazionaria è proprio nulla. Ah, ma che no, che viene. Oh, ma così muovi, cosa? Quanto si muove qua? Adesso volevo fare una prova, tu, il Cobra col... Sicuramente vorrò darne più 3. Prova a vedere. Non lo so se c'ha le stesse connessioni, a tu. Adesso lo provo, vediamo un po'. Ok. Pare che non andare lì su. Prova. Pescando, capito? Ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aspetta, Guarda un po'. Ma ce l'ha fatta parecchio, questo non andava a vedere, è quello che andava a vedere. Bene. Via. Se va a baciare il microfono, se no è tra i cuffi. Questo è il Cobra, tu, però aspetta un attimo, adesso lo sto usando col micchiglio un po' basso, così va bene, guarda un po', aspetta. Ora. Andiamo a vedere, va benissimo. La modulazione va bene lo stesso. Sì, capolo se va bene, va benissimo. Tu, il micchiglio lo porta solo abbasso un po' il micchiglio, altrimenti innesca troppo, è troppo alto, capito? E deve allontanare che va giù i cuffi. Ti ha pagato. Ma va, ti mando una foto. Andare, dai, uso l'altro. Ho ogni tanto lo accendo, so se lo vino. Ma fai bene a fare. Cosa? Se la pareva sto facendo. Sì, l'ho fatta l'altro giorno, tu, è uscita buona. Sì, sì, l'altro sempre facendo, no, non c'è problema, capito? Allora io l'ho presa al... sì, va bene, ma a Lidi la paghi molto di meno, capito, tu? Dove? Lidi costa 1,75 euro. Leader. LD costa 1,75. E lo stesso costa ancora 1,80, così. È uguale, dai, diciamo, non è che cambi, che ci sia questa grande differenza. Tutto lì. Scappa, compare mi sentito io. Pensa tu quanto guadagni, amici. Beh, di dina. Se tu andi a comprare la Burbuzzi fuori da tutti i giorni, una vaschettina piccolina guarda 2 euro. E te la potrei pagare un po' di dina. Vai, ci mi auguro, vai. Adesso sto imparando a fare anche le pizze al taglio in casa. Oggi l'ho provata così e mi sono uscite quasi bene. Adesso la meglio mi perfeziono e faccio le pizze, mi faccio le pizze in casa. Giudice, l'ha giocata con un forro ventilato, quella che ho fatto io. Che cosa? La fai, l'ho fatta col ventilato. Beh. È uscita di luce alla grande, capito? Proprio buona, eh. E l'ha giocato io il ventilato. Io l'ho fatta con quella, tu. E andava in un mattese. Andava. Con quella gas bisogna mettere la pietra, non si bruciare. Ma io ogni tanto la faccio, mi la palla giù fatta, solo che la devo lasciare rifoggiare 4 ore, capito? Sì, so tutto, so tutto. Sì, vabbè, la palla da così. Quindi chi tu copra andava a tu? Sì, che ti andava, non è quintissimo, va bene. Ti dico, ma spinge bene di radio? Sì, sì. Quello... era da un po' di tempo fermo, ce l'avevo, capito? Tu? Per considerare che il micchiere lo abbasso, altrimenti non è ancora da aumentare. Troppo spinta, non te ne vuoi aiutare. Ma lo lascio così, perché sennò poi va a strappare e c'è una porcheria, capito? No, no, ma non tocca. Facciamo un radio, va a punimmo l'umagno a vedere, su Duvincio. Mi state mandando una fotografia per se ti piace, lo strumento. Aspetta che me lo guardo. Ma penso che sia una cagata che sono. Allora, la faccio trattato Duvincio. Adesso la guarda tu. Andava già. Andava sì. E vai Billy! E vai Billy! E vai Billy! Su che andiamo! Vabbè, allora. Vabbè, tu, tutto a posto, sì. Tutto a posto, tutto a posto. Beh, così, dai. Guardate che sia tutto a posto. Grazie. E io fra un po' mangio e poi mi preparo verso le 10, alle 10 e mezza sono in servizio oggi. Grazie, andrà bene. Il russo va, è bello veramente, è come io, ce l'ho anche io uguale a tu, capito? Ma io ti trattavo, io ti funziona io. Quanto l'hai pagato, ma l'hai ordinato da fuori? Ma no, vabbè, ma fa bene. No, è bello, un bello strumento, sì, sì. Scappa, è professionale. Sì, andare bene, andare bene. Ma vabbè, Manuele, è bene. Sì, avanti, Manuele. E beh, fra. Ciao Emanuele, ma mi senti? Sì. Sì, a voi, a voi. Ero come te lo metti in lì, porca miseria. Ero 70enne, azzurra. No, già arrivi, tranquillo. Tu hai sicuro con un virus. Infatti l'altra volta va via un virus, giuro. 70enne riscende, figurati un po' più. Pensa a tu, cazzo. Pensa a tu. Sto facendo con la minima potenza, con... ci può dirmi. Allora provi a aumentare. parte Emanuele. E che ti indicherò. Chi è? Sì, tengo uno maciu, ui, non sa mai. E non sei anche tu, ma se sto facendo? Non tu, no, uno che mi sta arrivando a me. Ah, boh. Sì, io tengo a tutti. E beh, Emanuele, oggi ho travagliato, vai. No, mi tocca stanotte. Ho smontato stamattina e se stanotte. Kappa. Ehi, vabbè. Ma non hai provato a fare... Ci sono le domande per i vigili... Le domande di cose? Domande del vigile notturno. Ah, va che sono tutti cazzati. Sono tutte cazzate, perché non è vero. No, provate a chiedere lì a coso, quello che c'è a Bretanieta. Adesso mi devono far sapere alla bici, però come guardia armata, io c'ho già il decreto, quindi stanno cercando già il decretato. Appunto, perché di solito guardia vigile notturno è guardia armata, no? Cosa fai? Vigile notturno senza arma, Senza arma siamo, allora, è come guardia giurata. Allora, guardia giurata è GPG, guardia armata, è quella porterata di cortesia, quello che facciamo noi. Non lo possiamo fare il notturno, devi fare dalle 7 del mattino fino alle 6 di sera, poi dalle 6 di sera e poi passi al GPG come guardia armata. Lui, per carità, ma è che è il più forte, io coso o Franco? Vuoi fare dei paragoni del coso a tu? Tanto tu passi perché sei più vicino a me. Sto scherzando, dai. Sì, ma per parlare di altro. Comunque, mi hanno detto a me che stanno cercando anche il supportierato, ma non pagano granché. Vabbè, altro, ma se non vai altro, a Roma con gli amici mi dai. Lo so. Quanto ti arriva Antonio, Manuel, a fondo scala sicuramente. Cos'è che lo fa? Detto, sicuramente ti arriva a fondo scala Antonio. Che cazzo è, no, che si può dire? Figurati. Cazzo è caso che sei a casa. Vabbè, tu ce la sappiamo in viso adesso con altri dolci. Però in linea d'aria non te la sarai. Né manco 200 metri. Sì, ma siamo vicini, è normale che lo passi a Franco, cazzo. Io pensavo che era più forte di me, può essere. Però ti dico una cosa, nella zona dove è Franco, dove arriva lui, tu non ci arrivi, perché lui arriva da tutte le parti. Guarda che non sono messo male. Sì, ma Franco, ma non è questa la zona di Franco, ma è scatto tutto a bicchio. Sì, no, non lo metto in dubbio, ma io non sono messo male, no, l'attidotti, no, non ti credi, no. Sì, è un po' più alto di me, però io mi difendo, Lo so che ti difendi, la zona è buona, c'era anche io la teologia, ce l'avevo a te, e arrivavo da tutte le parti, però lui rispetto a te, rispetto a me, anzi, di me ancora bigio. Rispetto agli altri, lui la zona ce l'ha più buona di tutti. Sì, vabbè. Guarda il segnale, Emanuele, quanto sto arrivando adesso, guarda. 1, 2, 3. 9:30, sì. E Antonio, a te, minimo è 9:40. E di più, qualcosa in più. Più di quello non va. Ma lui deve considerare che è vicino. Sarò basso. Lo passi, Antonio, lo so che lo passi. Però si sente sotto un fanco, Prova a parlare, Antonio, dai, che parlo io. Vedi che lo sento sotto a Franco. Cazzo, e tu sei vicino a me, Antu? Però se avessi avuto l'antenna sul petto, ma c'è come ti era entrato. Aspetta, mi sento un attimo. E comunque Antu è buono, lo lascia andare il tuo. Va bene, io vicino per 40, cosa vuoi? Va benissimo. Non ti devi lamentare. No, chi si lamenta? No. Ho fatto una prova così, ho fatto. poi roba in lontananza, poi bisogna vedere. Io mi difendo bene, poi bisogna vedere com'è. Vabbè, in lontananza io arrivo a tutte le parti, da questa zona, e se invece da zona di campagna non arrivo a lui, è zona proprio chiusa, capito, per modulazione. Quindi no, diciamo che non va bene, e scendere un fosso non puoi pretendere più di tanto, tutto lì. Magari sei più aperto per altre zone, però. Alghero va bene, ma nelle altre parti non è che vai, Ma come mai? Forse perché è giù. Cos'è, una vallata in terra, come te? È una vallata, e allora è una zona chiusa. Perché succede così? Buono di due tradicette, guarda che ti arrivi. Non me la fotti in un tanto qua. Lo lascio qua, quando vengo qua, oppure ce l'ho anche in macchina, anche se non è acceso, però. In macchina non ti guardo mai, In macchina mi arrivi 9:20 giù. In macchina, se ti pone al monte 9:30 uguale. Hai visto che dalla macchina esco forte, va bene. La macchina dipende dove vai, posso arrivarti a mano, ma non posso arrivarti più basso. Ma infatti, no, io quando sono andato ai Sassari, anche fuori Sassari, verso Platamona ti sento benissimo, capito, non c'è problema. Non abbiamo ancora provato. Ma gli attaggi teso io, non c'è problema. Io l'altra volta ero alla rotonda e ti sentivo. Chi tu dici che mi intenda con lo scala? E chi? Chi tu che abita arriva a Platamona? A chi, Giovanni? Giovanni arriva bene lo stesso, solo che non perché il treno si è scoglionato anche lui, quindi diciamo che ha abbandonato un po'. È entrato l'altro giorno. Ah, è entrato? Sto dicendo io. Adesso non me che non lo sento, non lo so. Arrivano forte, lui a me arrivava molto forte. È zona buona lui, capito? Però arriva da Platamona. 9:10. Arrivi bene. Vedi, c'è la zona aperta lì, capito? Lui mi ha detto che arrivava con lo scala lì. Anche lui c'è una zona così. Per Sassari è un po' chiuso, dai. Però nella zona di Porto Torre Gentino arriva bene. No. Sì, comunque quello strumento è bello, ma tu, vanno bene questi strumenti qua, e poi sono perfetti, Fino a quanto arriva? 200 watt? Di più. Di più? 500? No, ho preso un kilowatt. Pezzo, buono. Che non è uguale come te lo voglio. No, il tuo è il 201, questo che ho io è l'SX200, il mio arriva fino a 200 watt. E questo è un po' più potente. Quello va bene. No, c'è un vasino dietro. È illuminato anche quello. Questi strumenti costano un bel di denaro, Io lo so, ma è illuminato, Scappa. E c'ha lo spinotto dietro, no? Per gli attacchi a 12 volt. Gappa. Chi te l'ha venduto? L'aveva pagato, adesso me lo ricordo. Mi sa che me l'ha dato chi l'ha dato a te. Sì, uguale. Ma è perfetto, funziona benissimo, niente da dire, va bene. Sì, è illuminato, c'è l'interruttore dei 12 volt, capito? Quello puoi spegnere anche, volendo, se non ti serve illuminato durante il giorno lo puoi anche spegnere, tutto lì. Allora, grazie. Vabbè, lo vedi meglio. Cioè, io sento gente da fuori, non so se tu li senti. La bomba del tempo. Figurati. Guarda, gente da pura. Vabbè. Ma non per più nessuno i tuoi canali. Non so come ti dica. Proprio molto alta frequenza, Ciao, su che. Allora, da dove è che è? E poi la sito da 50 ore. No, già. Un alimentatore della Kent. 50 ore. È troppo piccolo 50 ore. Io ne ho uno da 15, uno da 40 e uno da 25. Addirittura c'è la cosa 12 e a 13. No, vabbè. Ce l'ho perché è così. E vabbè, se lo piloti con 5 watt andrà bene, ma se dai 20 watt non te la batti. Io non mi uso potenza col baracchino. Vabbè, altri baracchini di 5 watt sono, noi, anzi di manco di 5 watt, stanno a 4 watt modulati. Io dico, per certo che col baracchino non è uso di watt. C'è il letto più dei batti, non il baracchino. Papo Tomaisu, a proposito, come sta funzionando? Bene. Chissà cosa. Benissimo. Meglio così, dai. Ne ho anche un altro alimentatore, da 30 di Cisri Ginesi, ma quello neanche lo uso io, figurate un po'. Sì, è malo, a me funziona bene. 9 gradi da tu. Preferisco gli alimentatori con gli strumenti io. Questi alimentatori usciti. Non mi piacciono. Tutto lì. No, fra, io come si dice? Io ce l'ho ma. Io tanto gli alimentatori non li voglio in mezzo alle palle. Quindi anche se ho così non mi interessa. Ma io gli alimentatori non ce li ho tutti a terra, capito? Non ne voglio nei mobili alimentatori. Alimentatori in terra, nel piano in terra e boh. Dove c'erano le radio, niente alimentatori, tutti fuori dalle scatole. Io non lo vedo migliore. Appunto, tanto ti serve solo per accedere alle radio, giusto? Non te ne fai niente. Faccio una ciabatta con un pulsante, cosa mi racconti a me? Funziona il cinese, già mi ha sempre alimentato tutto. Sì che vado bene, ce l'ho una vita io qua. È un griglia. Funziona, mai problemi va dato, Ma cosa scaccia a vitelli? E una volta che lo regoli, lo porti a 13 e 8, va benissimo. Ma anche a 14, non è vado in nulla. Cosa di fare? Io voglio che andava. Lo porti giusto, lo porti e funziona. Alla grande, funziona benissimo. Di lusso. Guarda, tre ne ho di quelli lì. Uno di scorta e uno sta andando. È quello che sta andando adesso. Ma voi che manco lo siete? Io ne ho uno, due, tre, quattro. Non vedi che manco lo siete? Perché è inventato un mobile, guardo. Però a me mi piacciono quegli alimentatori antichi con gli strumenti, capito? Quelli grossi, quelli da 40 ampere, 60. A me più sono fuori dalle balle meglio è qua. Vabbè, tu mi dirai che fanno lo stesso lavoro, capo? Io ne ho della GBC vecchio, ma sempre andelli, sempre in gamba. Qual è? Quello da 15? No, da 7. A 7 ampere, egli. Non sai che non dite tutti gli strumenti qua, che lo voglio così. No, mamma è tradito quell'alimentatore, eppure l'abbiamo anche sovraccaricato. Non ci ha mai tradito. Io ho questo da 20 ampere, che è un bonbon. Poi va giù l'acqua, da 35 e poi ne ho uno da 40, con gli strumenti sempre. Sto parlando quello con gli strumenti, no di quelli dei cinesi. Non mi ha mai tradito, non mi ha. La verità ti dico, quello alimentatore, c'è un saccaccio di anni ce l'ho. Si andava, cosa deve tradire? Quello GBC. Andare bene. Vanno benissimo. Adesso lo devo aprire perché mi si è mullato uno di quei cosi dove c'è la bananina. Ah, funziona come il primo giorno che l'ho comprato. Ma quelli vanno bene, Antonio. Non ti dato i problemi. Andare bene che sono i mettatori. Allora ce ne avevo uno due tacci che sono partiti bio di sicuramente. Ma quelli grandi o piccoli? Uno che l'abbiamo comprato da Fusaro, solo che il babbo si era lampato, io volevo mettere a posto. Era grande, era da 10 ampere mi pare. Beh, ce l'hai buttato per il ponte di Iori. Ma cosa vuoi che ti dica? Ma mi danno il vaso, come va a vedere. Vabbè. Io lo voglio venire. Vabbè, magari ce l'ha buttato perché non ce ne faceva niente. Ma si poteva aggiustare e mettava a posto. Però dite, se dovremmo un bel tempo, non mi ha mai tradito, non mi ha mai tradito, mai mai. DBC fa le cose buone. Non so che elettronica sia, ma ci ho avuto un sacco di anni. Sì, sì, ho capito. Allora, l'elettronica cinese. Ora te la fa fa. Lo saprà. Detto, perché lo devi buttare? No, non butto via niente. Io non mi dico che non si dà nulla. Allora, quando dici che virai? No, non ce l'avrei mai buttato, ma l'hai mandato a vedere tanti così. La tua questa me l'ha mandato di vedere che cosa. Che poteva aggiustarlo io addirittura. Figurati. Vabbè. Ma guarda che Dio, Domino. Ma te lo rampi, cosa fai? Ti ricopare di un acro. No, ma noi sono idioti da cambiare. Ma quanta gente si mette da quella cosa? E infatti, perché non te lo ripari? Non ce l'ho più, ce l'abbiamo rampato questo. Ah, non ce l'hai più. Cappa cappa. Sapeva qualcosa che regolava la tensione pure su goccia. Ho capito, sì. Ah, ma che... E tanto l'ala 48 me lo sono ripreso. Per fortuna me l'ha venduto, vabbè, te lo dico chiaramente, me l'ha venduto Luca. Funziona benissimo, funziona con uso con contento. Qual è quello modificato? No, me l'ha venduto normale. Ma cazzo, funziona con una meraviglia. Vanno bene quelli lì. Qual è il modello vecchio? Sì. Precisione seria, se quello proprio. Ah, che si fa di una va, non si viene a nutare 48. Ma non è così, fra. Non si viene a nutare, anche per le gobbe, però si intende, la funziona. La radio riesce bene, funziona bene, solo che piglia un po' di corpo e magari rimane muta, ma se rimane muta però se proprio di due ti intendo. A meno che sia troppo basso, allora diversa la cosa. Io ho detto, tu c'hai il modello come quello che c'ho io c'ho il 48 modificato ed è il modello vecchio, quelli che fanno adesso i modelli nuovi non mi piacciono a me, capito ti voglio dire? Ah, non sono male, però questo è questo. Ma vedi un circuito stampato di un modello nuovo e guarda quel circuito che c'è il tuo, è tutto completamente diverso, è tutta un'altra cosa, capito? Quello che ti voglio dire a tu. Ah, quello che fa fare l'ultimo, vanno male. No, funzionano bene, però a livello di circuito stampato a me non mi piacciono, capito? Lo so. Buttateli via, buttateli via. Io quando mi ha venduto questo 48 ero come un bambino contento. Ma che mi piace proprio, il tipo di radio mi piace molto. Avanti Natale. Buonasera a tutti. Io ce l'avevo, l'ho dato subito perché cazzo, in macchina, vediamo quel più in macchina, figurati a casa, non lo puoi usare a casa. Ma non è che non lo puoi usare Natale, è che rimane nudo. Però si fa di due, io ti tengo. E io sentivo quel più dell'altro mondo, battimenti, biglia. E io via. Quindi in casa non è tanto consigliabile avere un apparecchio del genere. Sì, di radio c'è bene, tutto quello che vuoi, però in ricezione non serve. Oh, vabbè. Comunque io non ce l'ho qua e mi trovo bene, la verità ti dico, mi trovo molto bene. Se ci trovo se non mi viene troppo in colpa accendo l'altro, non è quello il problema. Infatti, come apparecchio è bello tutto quello che vuoi, io ce l'avevo, l'avevo comprato nuovo, quello lì, me l'ho piazzato in macchina e pigliavo a colpi dall'altro mondo. Sì, non so come perché addirittura il modello nuovo non si fina a nulla. Come già selettivo e cose, vabbè, cosa... Sì, beh, Ludwig è sempre meglio, anche il 68 è una bella radio, fanno bene, però le prendono colpi, vabbè, ma dici che è un difetto di apparecchio, Ludwig, dici che pigliano i colpi. Sì, c'è avuto anche un ultimo da tre io, che pigliava questo peggio dell'Alan 48. Diceva per il radio, ma colpi e abbattimenti cantoni voi, a Calasci. E non era un Alan 48, era un ultimo da tre. Però pigliava colpi cazzo dall'altro mondo. Quella che c'era voi era una bella radio, il Typhoon, la Fayette, su me già più bintito, l'ha giurato. E chi c'era vedo, la mia Burlio, chi c'era vedo il Typhoon, ce l'ho avuto anch'io. Quella era una bella radio veramente, la Fayette, il Typhoon, dopo come ne sono pentito ve l'ho dato. Quello è un bel apparecchio. Molto meglio del Superstar, ma a 100.000 volte. Sì, io la vedo da Luca, dai. Ci dicono che un apparecchio bellissimo. Che dura sempre, Sì, è un grido. Sì, sì, compagni voci. Sì, guarda, è tornato, preciso. Sì, già lo so. Io l'avevo dato a Luca il calcio. Gamba, gamba. Ora è un bel apparecchio proprio. Funziona bene. Adesso arrivi fuori Luca e non che. Sì, è un grido. E bello è questo che ho adesso. Questo qui, Anito. Questo qui è tutto digitale, però colpino una miglia e 10 voci. Io adesso lo sto usando sempre con 2 watt. Come raccontano loro. E sta andando bene, si può regolare fino a 12 mi sembra. Ma è una belva. Funziona benissimo. E anche io sto usando il coso, lo stesso. Il cover adesso, con l'MB più 4. Ma io vi devo lasciare. Ci sentiamo dopo al limite, ok? Sì, ok, va bene. Buon proseguimento, Antu. Ciao Antu, dai, a dopo. Buona carica se devi fare carica, ci sentiamo dopo. David Tonattari, gli apparecchi di prima erano molto meglio di quelli di adesso. Non c'è dubbio. Adesso sono tutti con questi componenti microscopici, tutti che. Non c'è una nuda, quando si bruciano i triglietti. No, non ce n'è. E infatti. Non le fanno più radio seri. Capito. Tutto lì. Ma io ho visto anche il circuito stampato del 48. Fa schifo dentro, Sì, figuriamoci. Le vuole che muletti qua, che si tratta qui, qui c'è un muletto. Sì, già va bene. La buglia. E c'è un bel forte quello lì. E poi c'hai anche gli altri. Adesso con il blocco di visto. A volte potete dire cobra. A volte faccio sentire cobra, ma l'hai sentito. Sì, io l'ho sentito quando stavi parlando con Antonio. L'ho sentito, stava subito da un po' gomagno, come ne sono alzato poco a farmi, però sono ancora morto. Nel cobra gli ho adattato il Tanner più 3, quello nero. Sì, già va bene. Ho cambiato quelle MB più 4 in cambio del Tanner più 3, però già andava ad avere una fascia sul Tanner, no? E io il video. Ha avuto vita giù patrugiando, vabbè, mi piaceva, però a me quello le gambe figlia di Iru. E alla gambe. E io anche le qua famo, ho dato. Sì, ma dato il Tanner più 3, ho dato quello. Sì, chissà se lo compava a voi. Eh? si pompava a voce, chissà, su. Sì, siete dovuto andare più prego, ma stessi, e ci vuoi, pompate, pompate. Beh, ci commi. Ma che prima niente dici, Manuel? Boh, adesso vuoi andiamo? Devo essere in forma stanotte. Mamma mia, ma lo sai in macchina, sai? Beh, in macchina è furia a controllare, non so cosa fa in macchina. Se va a controllare, c'è già freddo. Lo so, non sai che cazzo di qua. A controllare, per manganello vai, nel mecco. Non è che te ne dà per manganello nel mecco, come ti va tirando il marino a fare i guanti. Ah, ma ci obbligate di semare con di massa, che ha obbligato dai cinesi. Comunque si già guardate sulla china. Ah. Io c'ho un manganello di quelli retrattili. C'è anche per paura. C'ho Manuele. Ecco, quello che si allunga. Sì, un ferro, e cattolico non è barriata, di chi su, guai. Io dico, buffa come te la iatta. Spero già vanno bene, vedi. Sì, lui, dirò dopo me. Non è problema. Che cosa decidete di fare? Spero già vanno bene. Se sono quelle allungabili che fa da un metro, da 50 fa un metro, mi sembra. No, è piccolino, piccolino, manco si vede. Però da voi si allunga, cazzo, dei ferro. Se ne una è barriata, uno di chi si guai. Esagerato, esatto, lo dico. Noi ce la vedete da pure abitare io, visto che fate le cariche elettrici. Fate affida al carico elettrico. Una bottiglia è fina, che state fate bruciare. Ma quella non la potete usare, tanto mi devono seggere. Catarista, come ti dirà la butta, lo sai come ti fa? Oh, yeah. Ma carista, non lo puoi trattare. Non l'hai compreso. Ci siamo. Non lo so, non si può usare quello. Il manganello invece lui lo può usare. Ma lo so se lo può usare. No, il manganello lui sì che lo può usare. Ma che va a fare la guardia senza armi? Perché non si può. Senza armi non si può. È servizio di portierato quello, non sono armati. Però quel servizio che fa Manuele ci vuole l'arma, c'è poco da fare. Uno che sta solo lì tutta la notte non è una cosa tanto bella. Ma perché facciamo servizio, Manuele? A procurare, ne sono entrati tre l'altro giorno, c'era l'altro mio collega e si è cagato in alto. Buonasera Gianni, avanti. Ah, ma come vai? Buonasera, pensavo non mi sentivate, boh. Ora ti sentiamo, è possibile, ti ho sentito io, boh. Kappa. Ehi, lo so, io guarda, uso il mangasio, boh. Poi se va a abbigliare Manuele, un pezzo di bomba, di rimbono, un pezzo di bubù, di coso, dai, va a e andiamo per un adesso. Vabbè, quello senz'altro. È tranquillo che fate un bel mare. Sì, ma questo che ho io non si vede e né niente. Solo quando lo togli, cazzo, lo allunghi si vede. Questo fate male a vino, si vede. Cazzo, io dico una marria da china. Io dico buffa come te la iatta. Quello mi sa che c'è la molla, no? No, non è a molla. È tutto di ferro, eh. È peso a muro. Sì, però è scubico. Sì, così è. Tu lanci e si apre. Se non vai, ti stessi da mano. Non te la devi vedere da lei. No? A De Buni ci avrà a Maneccia, ma Buni la Trento a Luzzi. Ehi, c'ha tutto, c'ha questo. Diciamo, non è che lo perdi così. Sì, no. C'era quella. È bello quello che c'è tu, ma no, io ho quella pila che accendi e poi fa anche la scarica elettrici. Ma quello lo si può portare. No, quello ti arrestano. Sei cazzo uno tanto va di liquidi la scarica e riveniva che infatto e crema. Sarebbe sarebbe un omicidio, me lo dico. No, ma l'hanno regalata. Devi mettere a caricare a due giorni, stanotte. E poi quella la carica. Ma dato una secchiata, guarda, quando ti schiacci il padre. Ma ti dorme, eh? Sì, al giro. Lo prendi come dalla scarica ti fa dormire. Ti colica in terra, eh. Può essere per una persona di 30 kg la fate bussare. Dove le vendono queste pizze? Ma io le ho viste su internet, ci sono, tu guardi e la trovi, costano una quarantina. macchina di Ivo, bella però, c'è una macchina normale, però poi è fatta della burulica. Tu ama sto ritrovo. Vai ci sono da vivo, chi si rinnovinne? Tu te la punti quella lì, ci siede subito, No, quella me la vuoi portare, appresso, quando ci sono quei pitbull che attaccano i cani. Quando arriva dico di la chiada, Rubens. Oh, c'è una chissà, si cocca subito in terra. Ma sono tipo quelle pistole che c'ha la polizia. No, ci sono una pila oppure tipo questo sorriso, tipo un mouse di computer, uguale, c'ha le due punte, tipo due chiodi, che quando c'ha un interruttore schiacci e praticamente mi ricordo l'attenzione che faccio da un connettore all'altro. In Italia non è ben vitale questa roba. Ci devi studiare un pitbull e mezzo di manganello qui qua giro, manco non si vedi e lo puoi ti appresso quando vedi che a che pitbull è bello rompi coglioni lo allunghi, ti dico come è barriato a capo, vedrai, ne ripassa tutta la gana, è la fantasia. E quello però da fuori bisogna ordinarlo quel manganello. No, a Sassari l'ho preso. Vai, da cenne ci sono. Tanto brucia, sa cosa. Sono rientrato un attimino. L'avevo comprato, mi pare una trentina di euro. Tu, ciao. Ciao già. 30 euro, mi lo consiglio, la baita. No, ma se vogliamo un manico di ruccio. Tutto beveva. Non che non ti fa male un manico di ruccio. No, bisogna andare a pigliare un manico di bicchi di chi si in pratica, che dentro vanno i rami, mani. Vani. Mi dico di un colpo di Gesù. E droghi dura, ma sono. Sono i tubi pibucci che usano per fare gli impianti idrici. No, il manico di pizzo ci vuole. Di quelli di plastica, i vani fuori sono di plastica, però dentro c'hanno l'anima. Si vanno il manico di picco, noi ci droga così. Ma lo vuoi bruciare, se no basta pigliare una mazza da bere. No, io se lo vuoi bruciare, io dico il manico di picco. Che ti serve ma fornire un rubicco, che tu sei agricoltore, che tu glielo vuoi bruciare? Vabbè. Ne serve per la fara zappita, ne serve, vedi? Candida c'ha panichissu, l'ho comprato per metterlo nella zappa o nel picco, capito? E non ti dice niente, a chi c'è il manico di bicco? Si dice nella tarina, no, si sente, no. Non si sente, no. Mi dico comunque fammi zicchina, ero tronchi in dubbi. Ma mi dice, ha ragione, riprendi già, che vado un attimo a fare sopra il caffè. Non si dice articolato, mi deve fare di nano. Di dietro, il televisore abbasso. E ma nemmeno un manganello si può arrivare lì, quindi tu sei fuori legge. No, io non ne posso portare, io lo so che non lo posso portare, però Emanuele sì, perché ha detto di pubblico servizio, ho capito, lui lo può tenere, noi non lo possiamo tenere, i civili. Io non ho l'aneddotazione, scusa se lo possono ottenere, Emanuele io non lo so, però informati. Cosa da tenere, era un biglietto di Cumanazusa e della Biglietta. Sì, si è armato l'ombesciusa che tengono, tipo di due schioppettate e si interra. Fa con tu sia mio fuoco di te, chi tu cazzo di tutti i tuoi di bugna bocca e ti fa zirrarà. No, allora giochiamo? E poi secondo che trovi è armato, dico di schioppettate e le mani non si vedrebbe a nulla. Molta gente è convinta perché c'ha la forza che può fare. No, non è così. C'è gente che magari è debole, però c'ha la pistola, ti spara, come ha fatto quella di punto, hai visto? Non è dato la precedenza, quello l'ha sparato, gli ha detto cosa, ha preso, si è sceso dalla macchina, questo qua tutto convinto, la biladra ha sparato all'acchi e l'ha gabbizzato. Oggi è successa un'altra. E cosa? Oggi è successo che ero cioè io ero vicino molto alla macchina, una macchina che già vedi ragazzi mi sorpassa così, cioè mi taglia e mi ha tagliato la strada, e gliel'ho detto molto tranquillamente, ho detto ma non lo vedi che hai sbagliato, che mi hai tagliato la strada, ma non ti accorgi? E però vicino catacolpi mi raccende cosa, commenti ha girato la moto, si sciocuperando grazie di 70 ma più di pune, il cazzo di moto non mi piace corrente, si sciocuperando in chi mi sa fa male il pisa, ci ho fatto non ieri, ma non a capo la macchina in chi, si sciocuperando la manetta crescente, ma ha detto vai no, che bene, dimmi tutti i canti che si cosa, e bene, brutto broccio la Giudizia, cosa si mi attende? Ci ho detto che io te l'ho detto pure la vittina ne dice no guarda lascia perdere scusa, stavo solo bisticciando con lui, cioè lui mi stava bisticciando a me, no ho visto che ha detto a me, caso che io te l'ho detto gentilmente e tu mi vuoi paghi te che dato, e con una scusa ma con quattro accuse, oh scemo, mica a me non me la tutti lontane, ho buffato. E cos'era questo ragazzino, una persona grande? Due persone grandi, cioè grandi, aveva avuto l'età mia. Ho capito. Ah, ragazzi, di pacconi occhio che va in colpo, bello bene. Cioè, io ti ho giudito gentilmente come si fa, che è sbagliato. E io provo a farmi dire cose, di mossi e cose. Ah, tu con calcio gallare. Io ti sacco un gabbo scemo. E che ho comunicato con un gobbetto di babbo. Ehi. Io vabbè, la sabbia tu che per famiglia non ti attaccare i cigori. A me non mi sbatte niente, io voglio rispetto, io non ti soccupo di nulla, te l'ho detto, con molta gentilezza te l'ho detto. E mi fa cosa, ma ancora si perde. Mega a me non mi ha tutti nulla, mi ha caputato di voce, lo scemo. Ma la gente stravagante, anche per sempre, c'è poco da fare.